Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Dario Ricci. Vigilia dei primi due quarti di finale a Sudafrica 2010 con Olanda, Brasile e Uruguay, Ghana che domani decideranno le prime semifinaliste. E proprio dal ritiro dei brasiliani arrivano polemiche e accuse. Il servizio. È bastato un giorno senza calcio giocato per lasciare spazio a polemiche, accuse e denunce. Il peggio di questo mondiale, fin qui memorabile soprattutto per gli errori arbitrali, è contro il direttore di gara, ha aperto il fuoco ora il super favorito Brasile. La voce rotta dalla commozione è quella di Elano, messo KO nel corso del secondo tempo della sfida contro la Costa d'Avorio e che rischia di aver già chiuso il suo mondiale. Gli arbitri non puniscono i violenti, ha detto in lacrime, tema già ripreso da Maradona, ma per difendere il suo gioiello Messi e far dimenticare magari il regalo di Rosetti. Polemiche che travolgono anche chi è tornato a casa, come Cristiano Ronaldo nella bufera per lo sputo a fine partita, difeso solo dal suo nuovo tecnico José Mourinho, o come Domenech, addirittura ascoltato in un'audizione a porte chiuse dal Parlamento francese, per nulla convinto delle sue spiegazioni, o ancora come la Nigeria, la cui attività sportiva è stata sospesa per 2 anni dal governo dopo la figuraccia mondiale. Storia quasi da non credere, ma domani per fortuna si torna in campo. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. E dopo il fallimento africano, oggi per gli azzurri inizia ufficialmente il dopo Lippi. Al via l'avventura di Cesare Prandelli, nuovo CT della Nazionale che sarà presentato stamattina a Roma. Il commento di Carlo Genta. Prandelli lo sa già, oggi dovrà indossare la sua faccia migliore, la più distesa e sorridente, dovrà vendere ottimismo e incassare fiducia. Dovrà essere il più trasversale possibile, cavalcare ogni voglia, non dire mai di no a nessuno, sia Cassano o Barotelli. Prandelli dovrà parlare a un paese sull'orlo di una crisi di nervi, caduto nel punto più basso della sua storia calcistica. Così dicono le statistiche mondiali. Come avrete sentito dire dal vostro architetto, costruire è più semplice che ristrutturare. Allora parta da lì, Cesare, lasciando solo intravedere le linee di un progetto tutto nuovo. Abbiamo voglia solo di questo. Poi un po' di fumo che non guasta mai, qualche effetto speciale, come Pianigiani, CT di un'altra nostra nazionale tutta da rifare, quella del basket. Siamo pronti a dare l'anima? È un'Italia che durerà nel tempo, ha detto Simone. Che poi non significa nulla di concreto, ma fa morale per un paese depresso. Faccia così anche Cesare Prandelli. Tanto il 10 agosto, quando debutterà la sua prima Italia, avremo secchiello e palette in mano e altro che non siano i mondiali in TV a cui pensare. Intanto altre nazionali eliminate sono alle prese con le conseguenze dell'addio a Sudafrica 2010. Mentre Fabio Capello è già ripartito per le vacanze, trapelano le prime indiscrezioni in merito ad una Football Association inglese spaccata al suo interno sul futuro del CT. Il presidente del Bolton, Phil Garside, uno dei 13 membri del direttivo federale, vuole che il tecnico friulano resti al suo posto e non lo ritiene responsabile per l'eliminazione dell'Inghilterra ai mondiali. La Football Association dovrà decidere entro 15 giorni se confermare o meno Capello sulla panchina dei Leoni d'Inghilterra. Intanto Javier Aguirre ha dato le dimissioni da allenatore del Messico. Lo ha reso noto lo stesso CT in una conferenza stampa a Città del Messico. Aguirre era accompagnato dal presidente della Federcalcio messicana, Justino Compeán. Per il calciomercato, colpo del Manchester City di Roberto Mancini. Per 30 milioni di euro ha acquistato il centrocampista del Valencia e delle Furie Rosse, David Silva, che ha firmato un contratto di 5 anni. Al Milan piace invece Joe Cole, pronto un triennale da 3 milioni e mezzo di euro a stagione per il centrocampista inglese del Chelsea, mentre altri due nazionali, Ashley Cole e Steven Gerrard, sono tentati dalle sirene del Real Madrid. E il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha aperto alla cessione di Quagliarella. E per il momento è tutto, ancora una buona giornata.